di schiena, mi guardi attraverso uno specchio, lenzuola squalcite di un letto disfatto. Sorridi fingendo sia tutto normale, si chiude soltanto una porta per non rischiare di farsi del bene. Sembra l'ultimo dialogo prima del titolo, ma in questo cinema io spero ancora in un colpo di scena. Che ore sono? Mi siedo all'ombra di questo lampione, profumo di pioggia nell'aria. Se chiudo gli occhi, risento il tuo odore. All'umidità una panchina mi sveglierà, un'alba nuova, sorrido ed aspetto il mio colpo di scena. Cambierà, sarà di nuovo.